Vuoi sperare che sia follia, follia? Vuoi sperare che sia la mia, la mia? Balla l'ultima vera melodia, bugia. Dimenticare non vuoi, male sale. Sai solo fottere poi, male sale. Amici, questa è l'ultima bugia, la mia. Sale, sale per non sentire male, male. Amore infame, sale, sale per non sentire male, male. Amor fatale. Riflesso verso dell'anima mia. Allora lascia che sia follia, follia. Felici, questa è l'ultima. Volare basso non puoi fare male, vuoi solo arrenderti e poi male sale. Amici, questa è l'ultima bugia, la tua. Sale, sale per non sentire male, male. Amore infame, sale, sale per non sentire male, male. Vuoi sperare che sia follia, follia? Vuoi sperare che sia la mia, la mia? Balla l'ultima vera.